La domenica andando alla messa, accompagnata dai miei amatori, mi sorpresero i miei genitori, monachella mi fecero andare, oi sì sì, oi no no. Sí.